Benvenuti a Kix. Oggi è sabato 9 ottobre, prima trasmissione che facciamo, e passo la parola a Marco che vi spiegherà un po' i contenuti che inseriremo un po' per volta nelle prossime settimane. Allora, da questa settimana iniziamo con il podcast di Kix, che tratterà un po' di argomenti, tra cui gli articoli più interessanti che sono stati pubblicati su Kix. Poi avremo dalla prossima settimana un'intervista a personaggi di spicco del mondo internet in Italia, tra cui gestori di portali o aziende che sono al centro della vita internetiana italiana. E poi avremo dei contributi esterni con delle piccole rubriche che, nelle quali nostri amici o partner tratteranno di diversi argomenti. Oggi iniziamo a parlare di podcast e podcasting, e Ludovico spiegherà quali sono le tecnologie che vengono utilizzate e la genesi dei podcast. Per chi non lo sapesse, beh, intanto se state sentendo questo forse sapete cos'è, o magari avete solo cliccato dal nostro sito, stacco il microfono perché sennò mi viene la gobba, e forse avete cliccato solo sul nostro sito, direttamente sul link MP3, lo state sentendo così, e quindi non avete scaricato questo audio come un podcast, quindi in maniera automatizzata, bla bla bla. Quindi se non sapete cos'è un podcast, ripercorriamo un minimo la storia di questo nuovo fenomeno che ha colto tutti di sorpresa e che sta avendo un sacco di successo, e vediamo quando è nato. È nato quest'anno, è un po' di mesi che un gruppettino di persone sta lavorando a questa cosa, ma nato veramente anche come termine non più di un mese fa. E che cos'è il podcasting? Il podcasting è un semplice meccanismo che mette insieme tecnologie note, che permette a qualcuno di registrare dei pezzi audio come stiamo facendo noi, come se fossero delle specie di trasmissioni radiofoniche più o meno fai da te, di pubblicarle su internet in un formato particolare, e a chi desidera ascoltarle di utilizzare dei software che le scaricano in automatico e le depositano o sul computer o, per i più fortunati, sul lettore MP3, sull'iPod, creando automaticamente le playlist, eccetera eccetera. L'idea è che adesso fra un attimo vi passo passo la palla a Marco, che già ha delle domande. L'idea è quella che voi lasciate il computer acceso la notte, ovviamente con sui puntamenti ai siti che vi interessano, che pubblicano i podcast, e la mattina vi alzate, acchiappate il vostro iPod o lettore MP3, ve lo mettete in tasca, e se andate in macchina lo sentite in macchina, se andate con i mezzi ve lo sentite con le cuffie come faccio io, e praticamente vi create una radio personalizzata con gli argomenti che vi interessano, brani audio dalle persone che vi sono più simpatiche, eccetera eccetera. Io ho subito una domanda: qual è la differenza principale, che penso sia una cosa a cui stanno pensando in molti, tra uno streaming di una radio, cosa che già si fa da diversi anni su internet, il podcast e anche la semplice pubblicazione di un file MP3? Come mai sembra che podcasting possa essere una rivoluzione, e appunto quali sono le differenze? Ma la differenza si può riassumere in poche parole, che poi sono il titolo dell'articolo di Doc Searls, parentesi, poi quando noi annunceremo sul sito questo podcast troverete tutti i link di cui parliamo in questo audio, in modo che poi potete andarvi a vedere le pagine di cui parliamo, eccetera. Dicevo, si può riassumere in poche parole, che sono quelle del titolo di un articolo di DocSearch, che è quello che ha scatenato interesse intorno a questa cosa, e che sono praticamente la radio fai da te. La differenza è che per sentire uno streaming io devo essere attaccato a internet e quindi o sono davanti al computer con una linea decente, possibilmente senza avere vari firewall dell'ufficio davanti che impediscono di sentire MP3, eccetera, o per i più fortunati un cellulare UMTS, bla bla bla, però a quel punto mi costa anche parecchi soldi sentire uno streaming. E in alternativa i file pubblicati random che si scaricano devo scaricarmeli, quindi devo andarmi a vedere a mano i siti, cliccare, scaricare, poi copiarli sul MP3 player, eccetera. Mentre invece col podcasting tutto questo è automatizzato. Cioè i siti che le persone che pubblicano i podcast lo fanno in una maniera standard e sapete che di solito prendiamo ad esempio uno dei siti più famosi che fanno questa cosa in America, che è IT Conversations, dove parlano tutti i big dell'information technology. Sapete che IT Conversation con una certa periodicità pubblicherà sempre dei nuovi file audio e sapete anche che se voi impostate l'indirizzo di IT Conversation dentro il software che automatizza tutto il processo di scaricare i podcast, sapete che ogni mattina trovate quello di nuovo che è stato pubblicato, quindi non dovete preoccuparvi di niente. E una volta che è stata scaricata la cosa, ve la sentite dove e quando vi pare. Direi che un'altra delle cose importanti che caratterizza il podcasting è la possibilità per ognuno di farsi un proprio palinsesto di argomenti interessanti. Quindi non devo dipendere dalle scelte di una redazione o di una media company, ma posso scegliere io direttamente quali sono gli argomenti che mi piacciono, mi interessano. E sul mio MP3 player avrò solo le trasmissioni, o meglio i brani di queste fonti. Tra l'altro abbiamo parlato di come poter utilizzare questi podcast, ma direi che è molto importante segnalare subito quali sono le applicazioni che permettono di utilizzare e ascoltare i podcast, e qualche riferimento di dove poter trovare segnalazioni dei vari feed delle varie fonti. Ripasso la palla a Ludovico, quindi, per approfondire questi due argomenti. Mi sono perso pensando a qualcos'altro. Aspetta, cos'è che hai chiesto? I siti? I software, i Xpodder e i siti dove poter trovare fonti. Probabilmente sentite la voce che va e viene. Adesso abbiamo un microfono solo, ci organizzeremo meglio le prossime settimane. Come tutti quanti siamo stati colti un po' di sorpresa anche noi da questo fenomeno, meno di altri, visto che siamo qua a fare il nostro podcast. Però, insomma, l'attrezzatura tecnica migliore arriverà. E no, prima di parlare delle risorse, come Marco ha detto giustamente, il podcasting vi dà la libertà di scegliere gli argomenti che vi interessano. E, per esempio, Dave, porco cane, come si chiamava? Dave Slusher, uno dei primi che hanno fatto un podcast, uno di quelli che hanno lanciato questa cosa. O Adam Curry, che è l'altro che l'ha inventato, non mi ricordo chi, insomma, in uno dei primi podcast fatti diceva appunto questo, faceva l'esempio di un sito di appassionati di board games, i giochi da tavolo, che ha fatto il proprio podcast e diceva giustamente via radio una trasmissione così non si sarebbe mai potuta fare perché una radio copre una certa area e in quell'area quanti appassionati di giochi da tavolo ci saranno? Uno, due, cinque, che poi a quell'ora sentono la radio, non è possibile. Mentre invece con i podcast tutto questo diventa molto semplice e permette a chi riceve di sentire i contenuti che gli interessano, ma anche a chi li produce di avere la libertà di poterli produrre senza investire tanti soldi perché basta un computer normale e un microfono e quindi di poter proporre audio, discussioni, interviste a tutti gli appassionati di un genere o di qualcosa. Allora, come diceva Marco, i software per l'iPodding. Beh, intanto qualche link. Apriamo il browser e andiamo sul sito che ho fatto, dove ho raccolto un po' di informazioni sul podcast. Si chiama podcasters.org ed è in inglese. Se se ci sarà abbastanza interesse, con tutto lo staff di Kix metteremo su anche in analogo italiano, però forse un po' prematuro adesso. Allora, intanto parliamo delle applicazioni lato utente, che forse sono quelle più interessanti. Se poi vi interessa produrre podcast, scriveteci oppure andatevi a vedere questo sito o fate un po' di navigazione su Google e poi se avete dubbi chiedete in giro. Ma per chi desidera iniziare a sentire i podcast, c'è già abbastanza scelta di applicazioni. L'applicazione forse più comoda, più user-friendly, grafica, abbastanza bellina, è stata rilasciata credo 2 giorni fa, esiste per Windows e per Macintosh, in futuro ci sarà anche per Linux, si chiama iPodder. La trovate su iPodder con 2d.sourceforge.net, oppure versione più semplice iPodder.sf.net, che è la stessa cosa. iPodder cos'è? È un aggregatore di news, per chi non li avesse mai usati. Gli aggregatori di news sono quelli che si usano come i blog, con i blog, per raccogliere news dai blog, che sono in un formato particolare, sintetico e processabile in automatico dal software, che si chiama di solito RSS. E iPodder è un aggregatore di news specificamente fatto per scaricare i podcasting, quindi quando poi lo aprite ha dentro già inserito un indirizzo di partenza per verificare che il software funzioni, e l'indirizzo di partenza non è altro che quello di un podcasting di test che vi dice se sì, io funziono, che proprio permette di verificare tutto il software. Dopodiché sta a voi trovare i cosiddetti feed, cioè i file che portano dentro i puntatori ai podcast, inserirli dentro l'iPodder e da quel momento tutte le nuove trasmissioni disponibili su quei siti, tramite quei feed, vi saranno riversate sull'hard disk. Sembra difficile forse sentirlo, ma se scaricate iPodder e avete un minimo di familiarità col computer, come è probabile visto che state sentendo questo, non vi sarà molto difficile capire come funziona. Ovviamente non c'è bisogno di avere un iPod, se uno ha un iPod tanto meglio, se uno ha un altro lettore MP3 va bene uguale, e se uno ha solo il computer si può sentire i podcast sul computer, se li salva su CD, se li mette su una chiavetta USB, se li porta in ufficio, qualsiasi cosa fate già con gli MP3. Altri software, c'è un altro software abbastanza bello specifico per Macintosh, si chiama iPodder X, e lo trovate a ipodrx.com. Per Windows c'è un'applicazione fatta in .NET che si chiama ipodder.net. La trovate a ipodder.net.sf.net. Anche questa è un'applicazione grafica, eccetera, eccetera, eccetera. Provatele, divertitevi un po'. Niente, avevo passato il microfono a Marco, che non c'è niente da dire. Andiamo avanti. Dove trovate i link ai feed da inserire nel vostro iPodder o iPodder X o iPodder.net che sia? Beh, sempre su podcasters.org ci sono un po' di feed, non sono ancora molto ordinati e soprattutto sono tutti i feed inglesi. E se no, andate su Google, scrivete podcast e vi verrà fuori un certo numero di siti che riportano degli elenchi simili. Quali sono quelli più interessanti? Ovviamente per il momento sono ancora tutti in inglese. Beh, c'è IT Conversations, www.itconversationsconversations.com, che raccoglie un certo numero di podcast e trasmissioni audio. Come dicevamo prima, c'è Gilmore Gang, fatta dai big, le grandi teste pensanti americane di tutto quello che riguarda internet, che hanno vari ospiti, intervistano non so, dal boss di Feedster alle nuove startup interessanti, eccetera, eccetera. Sempre su IT Conversations trovate conferenze di persone interessanti tipo Tim O'Reilly, eccetera, eccetera. E e più un certo altro numero di file, di feed audio, che comunque sono sempre relativi all'information technology. Altri due feed che non possono mancare, sempre se parlate inglese, sono Daily Source Code e Evil Genius Chronicles, delle due persone che hanno lanciato il podcasting, che sono Adam Curry e Dave Slusher, e poi le Morning Coffee Notes di Dave Weiner, che è il papà del blogging e, guarda caso, anche il papà del podcasting. Le trovate su scripting.com, www.scripting.com, che è il blog di Dave Weiner. E poi niente, come per i blog, gironzolate. Per ora la scelta non è amplissima, ma siamo sicuri che nel giro di qualche settimana, al massimo di qualche mese, ci sarà solo l'imbarazzo della scelta. E che altro dire? Non so se Marco ha delle domande? No, direi che per la prima spiegazione di podcasting penso che possa essere sufficiente, e quindi passiamo a trattare qualche argomento di cui abbiamo scritto su Kicks.it questa settimana o negli ultimi giorni, e abbiamo qualche notizia come sempre ormai, anche se non di lato finanziario, che riguarda Google, per cui abbiamo parlato di un paio di novità, tra cui un servizio che è appena stato lanciato in beta version in America, Google SMS. È un servizio che permette dal telefono cellulare di inviare un messaggio SMS a Google e con indicato una vostra chiave, una ricerca, per cui ad esempio una pizzeria con il cap piuttosto che la zona in cui la state cercando, e di ricevere immediatamente un messaggio di risposta sempre sul telefonino via SMS da Google con l'indirizzo, i numeri di telefono e tutti i recapiti. Il servizio per ora è attivo solo negli Stati Uniti. A quanto ho potuto vedere sembra che si appoggi a un numero SMS premium, che sono i numeri SMS corti di 4-5 cifre, che prevedono per chi invia il messaggio una tariffazione superiore rispetto a quello dell'invio di un semplice messaggio. Sarà sicuramente una nuova fonte di ricavi per Google, che sta cercando sempre più di diversificare dal semplice business del AdWords, quindi della pubblicità fatta sui risultati delle ricerche, e si sta spostando in nuovi settori. Si è fatto anche un gran parlare nei blog nell'ultimo mese della possibilità che Google stia lanciando un proprio browser, e su questo argomento c'è chi è assolutamente a favore, e invece ho letto anche su qualche blog americano commenti assolutamente negativi. Anzi, nella conferenza web 2.0 che si sta tenendo o che si è tenuta i giorni scorsi in America, proprio uno dei grandi scienziati di Google diceva che assolutamente non è nei loro programmi di lanciare un browser. Nel frattempo Gmail ha implementato qualche nuovo servizio, qualche nuova soluzione, tra cui una molto interessante, la possibilità di ricevere le proprie email, o meglio un estratto delle proprie email con un feed, per cui è possibile integrare questo feed personale all'interno del proprio newsreader e non dover ogni volta andare sul sito di Gmail per controllare se è arrivato un nuovo messaggio. C'è poi una piccola applicazione che installata su Windows si posiziona nel system tray e che vi segnala in automatico quando arriva un nuovo messaggio. E che altro? Direi che per altre notizie da Google per questa settimana non ce ne sono, anzi sembra già abbastanza. Poi Volevamo parlare di Finster e lascio a Ludovico la parola che ne sa sicuramente più di quanto ne possa sapere io. Ah no, non ne so molto. Mi sono imbattuto un po' per caso in questi giorni lavorando su podcast, perché c'è un sito di Fidster che si chiama Fidster TV, www.fidstertv.com, Fidster scritto con due Fidster. E mi ci sono imbattuto perché questo sito cosa fa? Va in giro per internet, spidera alcuni siti ben conosciuti che offrono contenuti da scaricare, contenuti più o meno legali, poi vediamo quali. E cosa fa Fidster TV? Vede questi contenuti, li accorpa e li raccoglie, indicizza in feed, di nuovo questa parola che ricorre, in feed RSS con enclosures, vuol dire che sono feed RSS che se inseriti dentro un aggregatore di news che supporta questa particolare tecnologia, e ce ne sono molti, tra cui anche quelli usati per il podcast di cui parlavamo prima, questi feed fanno sì che ogni nuovo contenuto che arriva vi venga scaricato sul vostro computer. Riassumendo, visto che qua tra parlare tecnico e cercare invece di far capire le cose, ogni tanto si fa un po' di casino, facciamo un esempio. Per esempio su Fidster TV avete un feed audio che raccoglie tutti i brani audio MP3 che sono stati trovati sui siti che Fidster va a tenere d'occhio. Credo che dovremmo finire qua perché il portatile ci sta avvisando che lo spazio disco è insufficiente. Comunque andatevi a vedere Fidster TV, ci sono anche tutti gli episodi delle serie TV americane più viste, ovviamente che arrivano via BitTorrent da Supernova, eccetera, eccetera, eccetera. E nelle prossime puntate cercheremo del nostro podcast, cercheremo di, come abbiamo detto, avere interviste e magari di essere anche un pochino più profondi e sciolti, parlare un po' delle tendenze internet, delle cose più interessanti che arrivano dagli Stati Uniti. E direi per adesso concludiamo qua. Ciao da Ludovico, speriamo di non avervi annoiato troppo. E ciao da Marco, a risentirci settimana prossima.